so più di te, so più di te, io non so più di te, non so più di te. Ma che dolore c'è? Sigarette di plastica, vodka dentro una tanica. Io non so più di te, non so più di te, io non so più di te, non so più di te. Ma che dolore c'è? C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove, quando piove tu non stai con me. C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove, quando piove tu non stai con me. Cicatrici di Venere sul mio cuore di cenere. Io non so più di te, non so più di te, io non so più di te, non so più di te. Ma che dolore c'è sopra i fiori di Amsterdam? Ti ricordi che bim bum bam? Non so più di te, non so più di te, io non so più di te, non so più di te. Ma che dolore c'è? Spilla qui le tue lacrime, non cancellare le dediche. Io non so più di te, non so più di te, io non so più di te, non so più di te. Ma che dolore c'è? C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove, quando piove tu non stai con me. C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove, quando piove tu non stai con me. Non dimentico, siamo stati un oceano, stelle che poi si infrangono sugli scogli della tua costa nuda. Io non dimentico il sapore dell'erotico.